Radio 24. Libera la voglia di fare. Radio 24 presenta Il sabato del villaggio. Liberi consigli per il fine settimana. Buongiorno, eccoci insieme con questa puntata speciale del sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio è il nostro villaggio globale ed è sempre la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali. Un sabato molto particolare, questo perché siamo in onda dal Festival di Sanremo, anche nella terza ora di RadioTube insieme a Daniele Bellasio, collegato dagli studi di Milano. Ma cosa succederà in questa prima ora sanremese del sabato del villaggio? La Sanremo gustosa con il nostro gastronauta Davide Paolini. In collegamento con Milano parliamo di tecnologie e musica con Enrico Pagliarini. I film in sala questa settimana, ma subito è tempo di bilanci. Buonasera, 67esima edizione del Festival di Sanremo. Ormai è un rito, perché sono già 2 anni che iniziamo il nostro sabato del villaggio con un bilancio e io non posso che chiedere il bilancio al direttore di TV Sorrisi e Canzoni, Aldo Vitali. Ciao Aldo! Ciao, buongiorno a tutti, celebro il rito come se fossi un pastore laico. Certo, ufficio, sì. Un bilancio, allora, diviso per cose, per ascolti, super, direi che proprio non c'è stato problema, è stato bene tutte le sere. D'altra parte, quando un festival comincia bene, difficilmente perde ascolti nelle altre serate. Non c'è stato, ma non poteva esserci, l'effetto più 3 milioni, più 4 milioni, cioè la somma tra qualcuno quello di Conti detto, e più insomma, Maria, ma era impossibile, certo. Perché chiaramente gli telespettatori che seguono Maria, sia quelli di C'è posta per te, sia quelli di Uomini e Donne e di Amici, sono già spettatori di Sanremo, tant'è vero che Maria durante il festival spegne C'è posta per te, spegne i programmi, quindi c'è stato un effetto di ha rinforzato Maria, probabilmente un festival che non aveva più la sorpresa di Carlo Conti al terzo anno, ha puntellato, ha cementato questo ascolto, ma quindi molto bene. Dal punto di vista delle canzoni, direi che ora che le abbiamo ascoltate tante volte, l'impressione che avevamo avuto, almeno che io avevo avuto all'inizio, che ci fossero tante belle canzoni, nessuna che entrerà nella storia di Sanremo secondo me come Adesso tu, tanto per intenderci, ma tante canzoni che ascolteremo diciamo per qualche mese, almeno fino all'estate, fino a quando irromperanno le canzoni dell'estate, ci sono, e alcune sono anche state coraggiose, penso a quella di Chiara che è arrivata con una canzone praticamente senza ritornello, quella di Michele Bravi, dico quelle che secondo me sono le più, quelle che preferisco, al di là poi del fatto che non potrei dire quali sono quelle che preferisco. Io gli ascoltatori non possono dirlo, ma ti guardo con l'aria, ma il direttore di Sorrisi non no, può no, beh, dirlo. Però dico delle cose normali, cioè sono proprio gusti super personali, non da direttore di Sorrisi. Però ripeto, ci sono state tante belle canzoni. Gigi D'Alessio per esempio secondo me è stato ingiustamente eliminato. Ecco, queste eliminazioni che impressione ti hanno fatto? Che ognuna ha un significato diverso secondo me. Allora, Gigi D'Alessio ha pagato per l'ennesima volta lo snobismo della giuria di qualità, che poi bisognerebbe stabilire anche lì cosa significa giuria di qualità visto anche com'è composta, e soprattutto anche un errore che pare ci sia, anzi che c'è stato, perché ieri sera poi è stato anche detto al dopo festival, sul meccanismo della votazione della giuria di qualità, che doveva votare minimo 10 canzoni, mentre invece il presidente della giuria o Linus che faceva il facente funzioni ha detto dovete votare al massimo 10 canzoni. Questo ha provocato che magari Gigi D'Alessio, che non era tra i 10 preferiti della giuria di qualità, ma che sicuramente sarebbe stato il 12esimo o il 13esimo, perché poteva votare tutte meno uno, questa era la cosa, quindi ha pagato questo fatto, e quindi è stato secondo me un errore tecnico, ha pagato, diciamo, snobismo più errore tecnico. Albano e Giusy Ferreri, a mio parere, hanno pagato il fatto che a Sanremo si deve cantare strabene, altrimenti paghi. Purtroppo, per motivi diversi, nell'uno e nell'altro hanno cantato bene le canzoni. Quella di Albano è un classicone, quella di Giusy sta andando molto bene in radio, ma Sanremo è l'unico posto al mondo dove devi cantare strabene per vincere il festival. Penso a Jody Tonno e Lola Pons, certo, che vinsero nel 2008 un festival, cioè da assoluti sfavoriti, neanche underdog, proprio zero, però misero su un teatro, detto nel senso buono, bellissimo, e vinsero il festival con un duetto. Quindi questo. E quindi ci manca Ron. Ron ha avuto un percorso accidentato per tutto il festival, eliminato, poi ripescato. Secondo me Ron non è stato capito, perché la sua canzone era meravigliosa, è meravigliosa, è una delle mie preferite, così aggiungo una canzone a quelle preferite, molto romantica, con un testo bellissimo. Forse aveva un arrangiamento un po' troppo Coldplay, che era poco coerente con Ron, e soprattutto non faceva sentire la sua voce cristallina, meravigliosa, inconfondibile, e le parole della canzone, che sono molto romantiche, e quindi a te, Marta, piacciono tantissimo. Ma certo, perché sono una donna romantica. Tu che segui i social tanto quanto li seguo io, in tanti su Twitter, un po' meno, dai, in tanti su Twitter sono lamentati: dal punto di vista televisivo non ci sono sorprese, novità. Però come si fa a fare sorprese e novità con una media di ascolti così alta? Cioè, bisognerebbe prendersi dei rischi incredibili. Ma secondo me qualche novità c'è stata. Intanto c'è stata una regia molto più bella degli altri anni, con questo giochino anche del backstage prima e dopo la canzone, quindi dare anche un'idea dell'emozione del cantante prima di entrare e quando è uscito. Quindi già, voglio dire, chiaro che Sanremo è come un po' talent show, un po' talent show, è un po', Sanremo è un po' come un transatlantico, no? Quindi tu quando fai la manovra la devi fare molto lentamente, se no finisci a fare l'inchino e a finire sull'isola e spatasciare tutto. Poi l'altra cosa è che quest'anno io ho visto anche questo inserimento di elementi extra musicali ed extra spettacolari. Parlo dei soccorritori del terremoto, parlo della centenaria, di tanti elementi che, certo, tutti hanno detto: beh, certo, Maria ha voluto portare, qui c'è posta per te. No, secondo me c'è stata una presa d'atto. Come dicono tutti, il festival è lo specchio del paese, però poi alla fine non specchiava altro che delle canzoni. Quest'anno ha fatto veramente da specchio al paese, perché tutti noi abbiamo assistito volentieri a milioni e milioni al Festival di Sanremo con un po' di morte nel cuore per la situazione generale in cui si trova l'Italia e in particolare alcune popolazioni. Quindi ignorare questa cosa sarebbe stato ipocrita. E invece farlo diventare un momento anche di comunione di sentimenti è stato bellissimo. E non a caso il momento in cui sono saliti sul palco tutti i volontari, la Croce Rossa, pompieri, protezione civile, è stato il momento, il picco di ascolto della prima serata. A questo proposito, tu hai l'osservatorio privilegiato di colui il quale riceve tantissime lettere, tantissimi feedback da parte dei lettori, perché io mi immagino che ci siano ancora tante persone che vogliano lamentarsi, dire la propria, oppure fare i complimenti attraverso sorrisi. Prima di Sanremo, le polemiche sui compensi, Sanremo in questi tempi difficili, secondo te perché? Tu che sensazione hai avuto? Ma l'Italia è un paese un po' strano in certe cose, no? In America, per esempio, un attore si vanta di essere il più pagato di Hollywood, no? Arriva Brad Pitt e dice: io guadagno 20 milioni a film, arriva quell'altro e dice: io ne guadagno 22, c'è una gara, no? In Italia c'è questo senso di colpa di guadagnare 600.000 euro in un festival che muove milioni e milioni di euro. E Carlo Conti ha un compenso adeguato, anzi, se vogliamo, sottostimato, arrivo a dire, rispetto al giro di affari che produce e che può produrre solo lui e pochi altri in Italia come personaggi dello spettacolo, e quindi è giusto che venga pagato. Chiaramente è vera anche l'altra cosa, che viviamo un momento di crisi e in cui molta gente fa fatica e quindi questa visione così un po' viene normale, dire: cavolo, guadagna troppo per quello che fa, anche se, ripeto, è normale che sia così. La cosa che però, se tu mi dici, scandalizza di più i lettori di Sorrisi, ecco, da questo punto di vista, non è tanto il compenso di Carlo Conti, perché io ho ricevuto forse due o tre lettere su questa roba qua, ma nemmeno poi cattive, erano, dicevano, ma insomma forse potevo darà, sarà vero che darà qualcosa ai terremotati, cioè c'erano semmai dei dubbi così. Quelle che invece scandalizza veramente i lettori di Sorrisi sono le vincite all'eredità, perché lì dicono, si arrabbiano perché dicono sono domande troppo facili, non c'è nessun nessuna qualità, nessun talento per rispondere, e quindi quello si porta a casa, o affari tuoi, si portano a casa 20.000 euro, 50.000 euro, 100.000 euro, 500.000 euro, non sapendo fare niente. Questo è uno schiaffo alla miseria. È più su quello, quindi diciamo è riconosciuto il talento di Carlo Conti, che ne guadagna 650, e invece, come dire, criticato molto il fatto che un altro ne guadagni solo 150.000 meno, se ha un po' di fortuna una sera prima del titolo. Secondo me ogni tanto ti fanno contro quando vedono che stanno per vincere tanto. Esatto. Allora adesso ti chiedo di tirare fuori i tarocchi. Sanremo 2018, chi secondo te potrebbe farlo, e magari chi vorresti tu, ovviamente non puoi esprimerti come, però magari uno dice che tu potresti dire, ma magari sarebbe divertente vederlo, metterlo alla prova. Io Totti e Ilari tutta la vita. Beh, ottimo, sarebbe fantastico. Il Casavianellissimo. No, Totti è una battuta che è stata fatta, e quindi non penso che sia possibile, ovviamente, anche perché diciamo il peso di Sanremo è troppo forte per le spalle del capitano e di Ilari, perché comprende non solo presentare, come ha detto giustamente Carlo ieri, la conduzione è l'ultima cosa di Sanremo. Penso che una delle cose più probabili, è anche perché Sanremo lo possono fare in pochi, cioè sono pochissimi, potrebbe essere veramente una coppiata Paolo Bonolis Mazzi, Gianfranco Mazzi, Mazzi per la musica, che è proprio un famoso direttore artistico, e Paolo perché l'ha già fatto con ascolti ancora imbattuti e quindi potrebbe farlo. C'è il solito problema del, che è un po' secondo me imbarazzante da un certo punto di vista, che la Rai alla fine ricorre a talenti di Mediaset, no? Ah, certo. Cioè, chiaro, Carlo Conti è super Rai, però diciamo quest'anno Maria, se l'anno prossimo, quindi sarebbe bello che la Rai trovasse il coraggio magari anche di trovare una conduzione propria, nuova. Non ha molto, diciamo, di nuovo e fresco nella scuderia, però secondo me con un po' di fantasia si può trovare una soluzione. Dall'altra parte il direttore di Rai 1 Fabiano ha 40 anni, il direttore generale della Rai Campo dell'Orto è altrettanto quasi giovane e ha soprattutto un'esperienza MTV molto forte, quindi il pensiero laterale c'è a disposizione per cercare delle soluzioni. Ultima domanda, qual è l'evento televisivo che adesso aspetti di più? Io so perché mi fai questa domanda. No, perché? Dai, dimmelo. È l'Eurovision. Che tutti gli anni dico quest'anno ci sarò, vengo anch'io eccetera, e poi ti vedo partire. Il coraggio di prometterlo. Chi è quest'anno? Chi è? Dai, ti vedo partire, mi viene la lacrima, perché naturalmente quella settimana lì succede qualsiasi cosa e io non riesco mai a venire, però insomma magari quest'anno è la volta, non dico che vengo, quindi magari è la volta che vengo. Comunque anche questo è interessante, capire chi andrà all'Eurovision, perché non credo che in caso di vittoria della Mannoia, che oggi è data tra le favorite, lei accetterebbe di andare all'Eurovision, e il regolamento non prevede che in caso di, cioè il vincitore ha diritto di andare, come gli stadio l'anno scorso che ha rinunciato, ma se rinuncia poi decide la Rai, quindi non è che si sceglie, si segue la classifica. Quindi se vince Paola Turci, che secondo me oggi è la strafavorita, una delle strafavorita, ma anche proprio l'abbiamo sentita crescere in questa settimana, la Turci potrebbe essere buona per la Turci. Vieni, per la Turci vengo per te, Marta. grazie Aldo Vitali, direttore di Sorrisi e Canzoni, a presto. Grazie. Il sabato del villaggio. Il sabato del villaggio. Ti trucchi e sei più bella, le mani stanche e sei più bella, con le ginocchia sotto il mento, fuori piove a dirotto, qualcosa dentro ti si è rotto e sei più bella. Sovrappensiero, tutto si ferma, ti

e soprattutto ovviamente il pesce del, diciamo, ligure è interessante, ma addirittura ci sono anche nel Golfo di La Spezia, in certi periodi dell'anno addirittura si trovano le ostriche, quindi diciamo è un mare abbastanza completo. Un altro pesce che io amo molto e che si trova in Liguria è il morrone, e quindi un altro pesce secondo me che se lo trovate nei ristoranti mangiatelo, perché è poco conosciuto ma è un pesce da mangiare, così come le acciughe ovviamente non mancano, perché il passaggio avviene proprio in Liguria delle acciughe, è uno dei luoghi sacri dell'acciuga, quindi le acciughe piacciono un po' a tutti, credo, o no? Mi piacciono le acciughe, mi piace il fatto che con te si passi indistintamente dalle ostriche alle acciughe, perché le cose buone da mangiare si trovano dappertutto. Io dico sempre che sono da Bosco alla Riviera. Va bene, straordinario. Grazie al nostro gastronauta per averci portato anche a sperimentare qualche ottimo indirizzo in quel di Sanremo, insomma, in Liguria. Grazie alla prossima settimana, saremo ancora e come sempre a Milano. Ciao Davide. Ciao ciao. Il sabato del villaggio. Il sabato del villaggio. Essere o dover essere, il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del neolitico, nella tua gabbia 2x3, mettiti comodo, intellettuali nei caffè, internetologi, soci onorari al gruppo dei selfisti anonimi, l'intelligenza è demode, risposte facili, dilemmi inutili. Cercasi, storie dal gran finale, sperasi, comunque vada Pantarei, singing in the rain, lezioni di Nirvana, c'è Buddha in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria, la folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scarma. E ci ritroviamo dopo la pausa ancora con il sabato del villaggio, ancora da Sanremo. E come sempre a quest'ora parliamo di tecnologia. Lo facciamo, come sempre, con il nostro Enrico Pagliarini, che però è a Milano e quindi mi collego subito con Milano. Ciao Enrico. Eccomi qua, ciao Marta, ciao a tutti quelli che stanno seguendo questo Sanremo nel nostro pomeriggio a Radio 24. Allora, parliamo di tecnologia, oppure vuoi dire tu di che cosa parliamo, Marta? Ma guarda, io so che non sei proprio un appassionato di Sanremo e di musica, insomma, sei curioso più che appassionato, ma so che Sanremo non è tanto il tuo. Però ti ho chiesto di fare i compiti, ho detto Enrico, trovaci uno spunto musicale in fatto di tecnologie, ce ne sono tanti perché le tecnologie ormai sono davvero protagoniste della musica, ma quale aspetto vuoi approfondire oggi con noi al Sabato del Villaggio? Allora, c'è un dato che è indiscutibile, l'abbiamo commentato varie volte al Sabato del Villaggio 2024 in altre trasmissioni, è quanto la tecnologia negli ultimi anni abbia cambiato il modo con cui noi fruiamo della musica. Forse il servizio più popolare che abbiamo conosciuto in questi ultimi anni è lo streaming audio musicale, via computer, via smartphone, sempre di più via smartphone. Citiamo alcuni servizi, direi i servizi più popolari che possiamo utilizzare in Italia. Questi servizi sono in alcuni casi simili un po' in tutto il mondo, alcuni sono locali o comunque europei. Beh, il più famoso, lo conosciamo, è Spotify. Esiste una versione gratuita con alcune limitazioni, esiste una versione a pagamento. Quando parliamo di questi servizi a pagamento, più o meno siamo sulla famosa cifra dei 10 euro, comunque attorno ai 10 euro. Poi c'è Apple Music, un servizio che è dedicato agli utenti Apple, soprattutto attraverso gli smartphone dell'iPhone, che ha una proposta musicale, tantissimi milioni di brani musicali che possono essere ascoltati via internet. Un altro servizio che funziona molto bene in Italia è Deezer, e che grosso modo è simile agli altri servizi, e poi ce n'è uno prettamente locale che ha una caratteristica per cui vale la pena essere ricordato all'interno di questi grandi player internazionali, che è Team Music. L'offerta musicale di Team è la caratteristica, diciamo, molto molto molto interessante, che al di là di una cifra che in alcuni casi potrebbe anche essere compresa in un abbonamento di Tim. Comunque, al di là di questo, non vengono conteggiati, non viene conteggiato il traffico internet. Cioè, se uno ha un profilo Tim, quindi un abbonamento, una scheda ricaricabile, e utilizza Tim Music, non deve preoccuparsi dei dati che scarica e quindi del traffico che genera sulla rete, mentre per gli altri servizi, ovviamente, gli altri servizi fanno traffico sulla rete e uno deve preoccuparsi del traffico quindi dei giga che consuma durante il mese. Questa sicuramente è una caratteristica interessante. Tra l'altro, Enrico, se ne saranno accorti tutti durante questo Festival di Sanremo, Tim è stato sponsor del festival. Ogni volta che si twittava con l'account Sanremo 2017 appariva il marchietto di Tim, quindi insomma se ne sono accorti tutti. La particolarità, mi spiegavano, è che a differenza degli altri servizi, loro hanno un gradimento della musica italiana preponderante, cioè evidentemente viene scelto da molti di quelli che ascoltano la musica italiana, appunto, lo dicevo, un servizio italiano, quindi evidentemente questa è una curiosità che però loro hanno notato. Sì, probabilmente ci sarà un pubblico molto, ovviamente molto italiano e soprattutto molto amante delle nostre canzoni. Però volevo introdurre un mondo di altri servizi, cioè internet e la tecnologia ci ha aperto e ci ha abituato negli ultimi anni a altri servizi che in qualche modo hanno a che fare con la musica. Max Ciocciola è il fondatore, il creatore, l'ideatore di Music Match. Bentornato a Radio 24, Max. Ciao Enrico, ciao Marta, ciao a tutti. Buona giornata. Due parole, Max, su Music Match. Che cos'è, come funziona, a cosa serve? Music Match è il più grande catalogo di testi di canzone ufficiale al mondo, in un'app, con più di 60 milioni di utenti che la usano in giro per il mondo, dal Giappone all'Indonesia, passando per gli Stati Uniti e arrivando anche nel nostro paese. Un prodotto made in Italy, come amiamo orgogliosamente dire, but enjoyed everywhere, che viene usato da più di 60 milioni nel mondo. È un servizio gratuito, giusto? È un servizio gratuito che consente di matchare, come diciamo noi, cioè di leggere e quindi fornire i testi per la tua musica, il che vuol dire che la tua musica sia locale sul tuo telefonino, quindi downloadata, scaricata, o che tu possa connetterti con Spotify o Apple Music. Automaticamente leggiamo i testi, li sincronizziamo con la musica e offriamo questa modalità divertente per poter leggere i testi. Ci sono anche i testi di Sanremo? Ci sono anche i testi di Sanremo, come ogni anno, che ci vengono forniti, anche se c'è da dire che la musica è apprezzata dai millennials, è sempre più internazionale. Sono curioso quest'anno di vedere quanto il pubblico giovane apprezzerà Sanremo. I trend ci dicono a livello internazionale che purtroppo la musica è sempre più inglese, da Ed Sheeran a Justin Bieber o altro. Quindi ben venga a Sanremo per lanciare i nostri talenti italiani. Da capire se i millennials o i teen, che sono la gran parte del pubblico di Music Match, apprezzeranno queste hit del festival. Enrico, tra l'altro mi incuriosisce molto, perché pur non essendo proprio vecchia da buttare, però io ho passato l'infanzia a ritagliare le canzoni dalle riviste e appiccicarle sui quaderni per cantarle. Invece qui, in un certo senso, puoi fare, adesso per spiegarla e per spiegarla intanto a me, fai come se potessi farti un tuo karaoke, perché tu lo puoi sincronizzare con la canzone. Corretto, esatto. Anche se non è proprio vero proprio karaoke, nel senso che poi alla fine il karaoke è più un fenomeno sociale, molto più asiatico. Noi diciamo che attraverso Music Match, leggendo i testi, l'utente acquista più padronanza della musica, la capisce. Peraltro, grande novità, su Music Match da poco ha le traduzioni dei testi, quindi l'utente può il brano di Ed Sheeran, Shape of You, vederlo tradotto anche in italiano e quindi capirlo meglio, quindi avvicina sempre più l'utente all'artista. Molto bello, molto bello. Quindi padronanza anche dell'inglese alla fine, perché si impara. E soprattutto, esatto, aiuta a capire le lingue e quindi a comprenderle meglio, assolutamente. Certo. Tra l'altro, lo sappiamo, storicamente uno dei migliori modi per imparare o comunque affinare una lingua è quello di ascoltare le canzoni, poi tradurle o guardare, leggere le traduzioni. Senti Max, io ti ho invitato, noi ti abbiamo invitato anche perché, visto che tu ti occupi di musica e il tuo lavoro quotidiano è la musica e la tecnologia, perché il tuo servizio nasce mettendo assieme questi due ingredienti, che cos'è che ti piace e che vuoi citare anche in questo pomeriggio a proposito di tecnologia e di musica in giro per il mondo, tecnologie che hai visto nascere? Guarda, sono di rientro da poco dal CES che tu segui sempre ogni anno, da Las Vegas, e legato al mondo della musica si parla di tre fortissimi trend. Premesso che si parla solo di streaming, le case discografiche quest'anno hanno annunciato crescite a doppia cifra, quindi la musica è sana, l'industria discografica sta crescendo, gli artisti sono sempre più contenti. Però ci sono tre trend interessanti al di là della crescita dei servizi di streaming. Il primo è questi voice assistant, ovvero questi speaker intelligenti come Amazon Echo di Amazon piuttosto che Google Home, che consentono attraverso l'interazione vocale di poter mandare la musica in ascolto. Li vedremo sempre più all'interno delle nostre auto, quindi mentre sto guidando smetteremo di girare la rotellina o di premere il tasto 1, 2, 3, a seconda che sia radio o comunque l'interazione con Spotify, e diremo semplicemente: Alexa, mandami in play la canzone dei Jovanotti. Quindi interazione con la voce. Questo fenomeno sta diventando grande, sembra che Amazon abbia venduto più di 15 milioni di questi speaker. Okay. E così sta facendo Google. Il secondo in cui noi stiamo entrando direttamente è il tema dell'artificial intelligence. Sta entrando anche nella musica. Il tema è sempre più non quello che ascolti, ma cosa posso suggerirti di ascoltare. Ascoltare il tuo mood, cioè sapere se oggi sei contento o comunque, voglio dire, consentirti all'interno di una playlist di ascoltare un qualcosa legato al tuo mood, al tuo umore o legato comunque al tipo di musica che ti piace. Quindi l'artificial intelligence sta entrando all'interno della musica con l'obiettivo di suggerirti nuova musica, farti scoprire nuovi artisti, e questo è decisamente interessante. Ultimo trend? Ultimo, citavo prima Shape of You di Ed Sheeran. Sapete come è stata lanciata da Ed Sheeran questa hit, che è stata lanciata tramite Snapchat con una di queste lenti che sapete essere questi filtri di Snapchat. Tu quindi potevi scegliere un particolare filtro di Snapchat e ti andava in play automaticamente 30 secondi, il che vuol dire che Snapchat comincia e sta diventando ad essere rilevante per l'utilizzo che ha sul mondo dei millennials per la musica. Quindi aspettiamoci di avere più, diciamo, release o preview all'interno di questo social network che, come sai, sta per quotarsi in borsa. Marta, hai sentito che cosa ti abbiamo tirato fuori oggi? Ma è meraviglioso. Io poi sognavo uno di questi comandi vocali associato magari anche a Shazam, così io canto una canzone, se sono intonata me la riconosce e me la manda automaticamente. Fantastico. Max, penso che se non ci siamo già arrivati ci manchi poco. Ci arriveremo, penso che manca veramente poco, e l'interazione sarà vocale, sarà veramente, tra l'altro uno degli utilizzi maggiori, lo ha dichiarato Amazon, non è in macchina ma è sotto la doccia. Quindi effettivamente per chi ama cantare sotto la doccia o per chi ama ascoltare musica, la voce sembrerà essere importante. Bene, grazie a Max Ciociola per essere stato con noi, fondatore di Music's Match. A presto, ciao, buon lavoro. Grazie a tutti, ciao a presto. Marta, grazie e buon divertimento a Sanremo. Grazie a te Enrico, tra poche ore scopriremo chi ha vinto il Festival di Sanremo, invece magari la prossima settimana ci facciamo dire da Max chi ha vinto il Sanremo di Music's Match, cioè chi comincia a essere quello più cercato come testi e magari appunto canticchiato sotto la doccia. Grazie Enrico, noi ci ritroviamo sabato prossimo, ovviamente tornerò a Milano e saremo ancora insieme. Ciao Enrico. Bene, ciao a tutti, ciao ciao. Adesso una brevissima pausa, poi saremo ancora insieme con il Sabato del Villaggio. Il Sabato del Villaggio. Il Sabato del Villaggio. Voglio che torni da me. Non sono molto bravo in questo. Non volevo rifare un tentativo. Vuoi cenare con me? Ok, va bene, vengo a cena con te. Perché ho fame. Ma parliamo solamente. Devi essere molto più veloce, Gray. Che cosa vuoi, Anastasia? Nessuna regola. E niente più segreti. Toglitele. Partiamo con un trailer di un film che, insomma, io ho capito subito cos'è. Chiediamo al nostro Franco D'Assisti di cosa si tratta. Ciao Franco. Ma guarda un po', partiamo con 50 sfumature di nero, perché è uno di quei film, no, di cui tutti poi alla macchinetta del caffè col collega, sì, ma che stupida, ma non ci andrò mai, no? E poi dopo invece, primo giorno, 1.700.000 euro di incasso, primo giorno, era un giovedì peraltro, e quindi non oso pensare dove arriveremo alla fine del weekend. Del film, come dire, puoi dire tutto e puoi dire niente, nel senso che non c'è alcuna sorpresa, è figlio di una saga che fatico a definire letteraria, insomma di una saga dell'editoria che ha avuto un successo clamoroso, e le cose vanno esattamente come devono andare. Nel primo film Anastasia aveva mollato Christian Grey perché lo amava, ma insomma non voleva essere la sua sottomessa. Il secondo capitolo riprende esattamente da lì, e con i tentativi di Grey, che è proprio sdrucito dentro nell'anima e che cerca di riconquistare Anastasia, magari cambiando a sua volta, ma insomma può cambiare un uomo di quel tipo? Probabilmente no. Questo è un po', diciamo, il canovaccio di 50 sfumature di nero, che, ripeto, adesso a parte gli scherzi e gli sfottò, è un prodotto commerciale, lo è dall'inizio alla fine, non ha alcuna velleità artistica, ma come prodotto commerciale si difende alla grande, e la partenza è stata davvero, davvero importante. Per quanto riguarda poi l'aver visto un bel film, è forse un'altra cosa. Franco, ma c'è anche qualcosa per famiglie? Perché insomma le 50 sfumature non sono davvero adatte per il cinema con i ragazzi, c'è qualcosa da andare a vedere in famiglia? Sì, beh, fortunatamente sì, perché sennò saremmo un po' alle strette questa settimana. C'è Lego Batman, il titolo già ci dice che è una sorta di joint venture, anche qui il commerciale c'entra molto, il marketing tantissimo. Lego Batman il film, i mattoncini più famosi del mondo, che già avevano avuto il loro esordio cinematografico con The Lego Movie, che era una trovata molto divertente, soprattutto a livello tecnico, perché vedere questi mondi crearsi e disfarsi sotto i nostri occhi con i Lego, con il sole, le nuvole, le strade, le persone, le case fatte di Lego, era davvero molto divertente. Stavolta il passo in avanti è quello di associarlo a un brand, a un personaggio che è un brand vivente, se vogliamo, quello di Batman. E tra l'altro l'operazione è molto interessante, perché ne viene fuori una sfaccettatura di Batman che in tutta la filmografia di Batman non era mai venuta fuori in maniera così potente. Cioè si possono permettere, attraverso i Lego, attraverso l'escamotage dei Lego, di dire delle cose del carattere di Batman, un uomo solo, ombroso, un po' bipolare, incapace di tessere relazioni, incapace di comunicare in amore, che vive solo in questa Batcaverna sontuosa, ma non riesce a prendere il canale con la televisione perché non è neanche capace tecnologicamente. Insomma, c'è una costruzione della psicologia di Batman che in tutti gli altri film, quindi io non avevo mai visto, quindi io lo consiglio non solo alle famiglie perché è molto divertente, ritmato, eccetera, forse anche troppo, ma anche a chi ha seguito in maniera filologica il Batman del cinema, perché questo è davvero un tassello in più. Franco, l'appuntamento con te allora è dopo il giornale radio delle 18 con La Rosa Purpurea. Assolutamente, vi aspetto tutti alle 18, Ricchi Premi e Cotillon come sempre alla Rosa Purpurea. Ciao Marta. Grazie a Franco D'Assisti, ma noi rimaniamo in tema di cinema, perché proprio qui a Sanremo, dal palco dell'Ariston, Paola Cortellesi e Antonio Albanese hanno lanciato il loro film Mamma o Papà, che uscirà la prossima settimana. Io e Valeria ci separiamo. È vero, è così, è la vita. E i ragazzi come l'hanno presa? Cosa? Nel migliore dei modi possibili. Sono esterrefatto. La faccio trasferire in Svezia. Amref parte per il Mali. Devi partire tu. No, perché devi rinunciare tu? Chi parte? Io. E chi accudisce i ragazzi? Lei. O vi mettete d'accordo o saranno loro a decidere se stare con mamma o papà. Allora vuoi la guerra? Sei tu che vuoi la guerra. Paola Cortellesi, a Sanremo la cosa importante è mamma o papà. Mamma o papà? Sai, ognuno spinge per l'altro, nel senso che questa è una storia, una guerra di divorzio, al contrario, nel senso che entrambi hanno diritto alla propria promozione e vogliono recuperare un po' il tempo perduto e fare in modo che i figli seguano l'altro. Una volta tanto la donna vuole che l'uomo si occupi dei figli per soltanto 5 mesi che la porterebbero via a causa promozione, e lui vorrebbe altrettanto. È una storia d'amore, una storia molto di grande passione, di grande amore. Non a caso esce a San Valentino, però è anche una storia di una grande guerra, con tutti i paradossi e le esagerazioni, insomma, legate alla commedia, insomma, che è quello che la grande opportunità che ci dà la commedia è di cercare di raccontare delle cose reali, insomma, realistiche, a volte plausibili, ma anche, insomma, con dei toni molto molto caricati. Tanto ci ha raggiunto anche Antonio Albanese. Antonio, Paola Cortellesi fa sempre dei ruoli femminili pazzeschi e sempre con una grande attualità nel suo modo di affrontare le donne. Sì. E tu come ti sei trovato con questa Cortellesi? Ma da parte, noi ci conosciamo da parecchi anni e c'era questo desiderio, anche da parte di Riccardo Milani, il desiderio di ritrovarci. E immediatamente, contemporaneamente, siamo stati molto fortunati, perché quando ti arrivano delle idee, a volte il tempo, ed è arrivata un'idea che noi amiamo moltissimo, è un'idea di un francese, di due francesi, non so quanti sono, però è un'idea francese che abbiamo amato immediatamente, che la troviamo originale, fortunata, e quindi ci siamo messi insieme, ci siamo chiamati e hanno detto ci sei, sì, ma con molto piacere, ed è tratto questo film che stiamo accompagnando con entusiasmo, perché non ti nascondo che da spettatori siamo felici di aver visto questo film, di vedere questo film, e quindi l'idea è quella di collegare a un'idea originale, quindi ci sacrifichiamo perché c'è un cinismo dentro spaventoso, però divertente e salvifico, come diceva un mio amico, l'ho contestato, però come parola è bella, salvifico. Le coppie andranno a vederlo a San Valentino, lo sapete che avete una responsabilità? Beh sì, è una storia d'amore fondamentalmente, io e Paola, adesso non c'è il marito, però ci amiamo fondamentalmente un bel po' anche nella vita, nel film questo amore fuoriesce come un ciclone. Mi ho innamorata vedendoti, uscendoti tu dalla casa. Poiché mi ho appassionata scoprendoti, avendoti tu nella vita. Però fra le tue braccia mi addormento, donna, e mi risveglio bambina stasera. Di te in questo mondo di parole ognuno c'ha la sua, io c'ho la mia. Ti amo. Ultima domanda, la promozione è una cosa normale, però quando capita nella settimana di Sanremo e la fate a Sanremo, che cosa significa andare su quel palco a parlare del vostro film? Ma guarda, è un palco talmente caricato di adrenalina, di ansie, di, che e poi alla fine io lo so che poi alla fine anche io, che devo dire non lo sono, poi alla fine un po' lo senti, però insomma non siamo qui, ci hanno appena detto purtroppo che non siamo in gara, perché noi veniamo a cantare una canzone, dunque sai, caduta quella alla fine cade un po' anche, cioè, tutta l'ansia che hai, il desiderio che hai di vincere. Noi speriamo che comunque, cioè, speriamo almeno di ottenere un premio, non so, un premio della critica, comunque, perché veramente portiamo una canzone ricca di significati ed è importante. Sì, ci sono dei sogni che si realizzano e tendenzialmente siamo anche trasgressivi, perché è una canzone d'amore. E quindi il sogno era quello di cantare a Sanremo, e come il sogno di un nonno di un mio amico, che era il sogno era quello di portare dell'acqua fresca a John Wayne. Quindi ci sono dei sogni, capito? Era il sogno del nonno di un mio amico, che era fuori con un balcone, però era molto simpatico, diceva, il sogno della sua vita è stato così. Il sogno nostro è quello di cantare a Sanremo e dare per 2 minuti e mezzo la possibilità di raccontarsi il film, ma anche di trasmettere la nostra passione per la musica leggera italiana. Grazie mille, ragazzi. Grazie a voi, anche a voi. Saluta Barisoni. Il sabato del villaggio. Benvenuto nella tua auto. Sono la Digital Radio. Ormai dovresti sapere che abito qui. Sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto. Basta provare. La radio è già avanti, non restare indietro. Scopri subito la magia della Digital Radio. Forse è già nella tua auto. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB! Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Ascolto Gianluca perché sono socievole ma non sono social. Perché a Grosseto Radio 24 si sente bene. Perché quando corro vorrei essere un gabbiano. Ascolto Gianluca perché ci devo pensare. Perché mentre rifaccio il letto mi chiedo se anch'io sono tutta da rifare. Ascolto Gianluca perché quando mi lavo i denti penso alla mia vita. Devo mangiare di meno. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro la notizia e gialli della storia. Poi i libri, gli appuntamenti, il cinema. Tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni e critiche. Anche la nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Il sabato del villaggio. Buongiorno, rieccoci insieme con questa puntata speciale del sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, questa settimana in onda da Sanremo, anche nella terza ora, quella di Radio Tube, insieme a Daniele Bellasio, collegato dagli studi di Milano. Ma cosa succederà in questa seconda ora? A tema musicale, gli appuntamenti con i libri e i consumi, insieme ad Alessandra Tedesco e Maria Luisa Pezzali. Il vero protagonista del Sanremo 2017, chi non c'era o non ci doveva essere, ma alla fine a furor di popolo c'è stato, il maestro Peppe Vessicchio. Ma subito salutiamo il padrone di casa, quello vero. L'Ariston di Sanremo, tutti abbiamo dei pass e in ogni pass c'è scritto dove una persona può andare. C'è chi ha accesso alla sala stampa, c'è chi ha accesso ai camerini, c'è chi ha accesso alla green room, che è quella dove si scaldano i cantanti prima di salire sul palco. Ma c'è una persona che sicuramente può andare dappertutto, anzi credo proprio che abbia le chiavi del teatro Ariston. Beh, io sono contenta di avere al sabato del villaggio il proprietario del teatro Ariston. Buonasera Walter Vacchino. Buonasera a tutti voi, soprattutto più che il proprietario sono una delle tante anime che riesce a muovere i mattoni di un teatro, quindi abbiamo le chiavi per entrare laddove serve entrare, per poter aiutare gli artisti, ovvero le persone, ad esprimersi meglio. Quindi. Allora, il Teatro Ariston è un luogo mitico per gli italiani, in diretta dal Teatro Ariston, una frase che hanno sentito tutti nella vita, ma una delle frasi che gli italiani dicono sempre è: ma lo sai che il Teatro Ariston in realtà è piccolo? Raccontiamo com'è il Teatro Ariston e cos'è il Teatro Ariston e cosa fa il resto dell'anno? Allora, il Teatro Ariston è piccolo ed è vero, perché le immagini televisive fanno credere di uno spazio immenso, mentre invece il teatro ha una sua dimensione che viene amplificata ed esaltata dalla bravura della RAI e di tutto il suo staff. E cosa fa il Teatro Ariston tutto l'anno? Fa di tutto. Quindi noi abbiamo fatto dai campionati mondiali di box alla settimana liturgica, quindi consacrato e sconsacrato. Abbiamo avuto sul palco 32 premi Nobel, quindi congressi, moda, un pochino tutte quelle che sono le manifestazioni. Non ci siamo fatti mancare neppure un campionato mondiale di biliardo, bodybuilding, quindi per campare si fa un po' di tutto. Anche il cinema però. Cinema è il nostro collante, è la nostra origine, visto che come famiglia dai primi del Novecento abbiamo fatto cinema su una sala piccola da 300 posti e poi siamo arrivati ad avere un pochino più di sale, però è il nostro DNA naturale. E devo dire che il DNA del cinema ha favorito il Teatro Ariston, perché essendo nato come cinema teatro, le dimensioni del palcoscenico hanno le dimensioni del CinemaScope, che non era naturalmente la dimensione della televisione quando è nata negli anni 50, che era 4/3. E quindi avere un palcoscenico che è i 16 nonni degli schermi televisivi di adesso è una conseguenza che noi siamo nati come cinema e poi siamo approdati al teatro. Questo è un anno importante perché c'è un anniversario per il Teatro Ariston, perché il Teatro Ariston ha cominciato a ospitare il festival, diciamo quasi per caso, per coincidenza? E diciamo che noi siamo provvisori, dal 77 siamo provvisori perché è risultata inagibile la sala del Casinò dove veniva il festival e quindi si sono spostati per un anno da noi e per adesso diciamo noi siamo ancora di carattere, come dicevo, provvisorio e abbiamo fatto di tutto perché questa provvisorietà possa continuare. Beh, ogni tanto si dice specchio del paese, in Italia non c'è niente più definitivo del provvisorio, esatto. Solo un paio d'anni non è stato qui il festival. No, un anno solo, nel 90, quando hanno spostato l'edizione nel Palafiori ad Arma di Taggia. Quindi per il resto diciamo tutte le edizioni sono nate, cresciute e hanno avuto il loro successo qui sul nostro palcoscenico. Ma quell'anno in cui il festival era ad Arma di Taggia lei lo guardava in TV? È andato a vederlo? No, sono andato a vederlo ad Arma di Taggia, però noi qui avevamo una trasmissione di internazionale di canzoni, quindi non eravamo disoccupati, ecco, quindi, e non ho avuto il tempo per andare a giocare a golf o a tennis, quindi facevamo dell'altro. È chiaro che c'era un sentimento di, chiamiamola, di ansia, perché avere questa manifestazione vuol dire essere al centro del mondo, quantomeno al centro dell'Italia, con l'internazionalità delle persone che vengono. E tutta questa esperienza rimane e si impregna nei mattoni del palcoscenico, quindi questa forza che viene racchiusa si sprigiona poi quando altri artisti vengono da noi e sentono l'emozione, la performance loro ha un qualcosa di particolare che il pubblico avverte e loro avvertono nel pubblico. Quando fisicamente lei consegna le chiavi ai tecnici che devono cominciare a lavorare sul teatro, sul Festival di Sanremo? No, le chiavi non le consegno, ce l'ho qui in mano. Sentite tintinnare le chiavi, sono qui. Ecco, quindi nel senso che, per carità, scherziamo. Noi siamo 160 persone che lavoriamo in questo momento al servizio del festival per far sì che le cose scorrano nella maniera migliore. Quindi la struttura è complessa, è cresciuta, è su diversi piani verticali, quindi noi abbiamo uffici, montaggi, di tutto e di più e tutto si deve concatenare. Devo dire che l'organizzazione della RAI man mano ogni anno ha sempre raggiunto un perfezionamento, un miglioramento continuo della situazione, però le nuove tecnologie naturalmente impongono delle novità. Quest'anno ci abbiamo, per dire, team con G5, siamo una delle tre città italiane che comincia ad avere, diciamo, l'alta velocità, lo dico scherzando, ecco, quindi è la connessione. Allora, c'è solo una cosa che manca, e che è il museo. Ci vorrebbe il museo del Teatro Ariston. È stato inaugurato nella forma iniziale nel 2000 e si chiama Museo Virtuale. Ci stiamo lavorando, nel senso che, siccome è un museo particolare che ogni giorno crea se stesso, quindi noi dobbiamo fare un qualche cosa che gli spettatori o i visitatori, meglio, possono apprezzarlo durante il giorno, ma nel frattempo noi continuiamo a lavorare sempre con questa struttura. Il gioco è multimediale, abbiamo fatto una mostra, le canzoni parlano quest'estate, e proprio perché era una prova generale di quello che il video insieme ai vestiti di scena e altre cose possono emozionare. E devo dire una cosa, è stata una mostra fatta molto velocemente, di dimensioni piccole, 200 metri. La cosa più importante sono stati i commenti dei visitatori. Tutti hanno avuto un'emozione dalle cose che hanno visto. Ultima domanda, ma a Walter Vacchino, gli altri gestori di cinema che lei incontra nei convegni, cosa dicono? Perché lei, insomma, alla fine gestisce il cinema più famoso d'Italia. Ma guardi, la mia lotta nel campo dell'associativo con i colleghi è stata quella sempre di curare la parte fiscale. Anche quando sono stato loro presidente, il mio primo punto era di difendere le strutture, le sale di spettacolo che sono chiese laiche da quelle che sono le tassazioni eccessive che ci impediscono di stare sul mercato. Noi veniamo considerati come dei centri commerciali con fatturate a metro che non abbiamo. La mia battaglia contro l'IMU, contro i decreti eccetera che possano avere un'applicazione è continua, insieme naturalmente al Presidente e ai colleghi, perché non si riesce a capire l'importanza, specialmente in questo momento, della possibilità di incontro delle persone, di riunirsi per potersi divertire, emozionare in un mondo che sempre più, uso la stessa parola di prima, crea ansia, preoccupazione. E prima che l'ansia diventi disagio, il cinema e il teatro aiutano a che non accada questo. Grazie Walter Vacchino, il proprietario dell'Ariston in persona, grazie. Prego, arrivederci. Il sabato del villaggio. Cerchiamo l'Europa delle opportunità. Più viaggio, più incontro persone della mia età che capiscono il mondo come il nostro mondo. Non è il mio paese, è la nostra Europa. Cerchiamo l'Europa dei valori. Io sono pro-europeo, sono uno che adora l'Europa. È una parte del mondo che mi affascina. Cerchiamo l'Europa dell'innovazione. C'è bisogno di informare e come possiamo aiutare i cittadini, i giovani, i ragazzi a capire che cosa è l'Unione Europea e cosa gli può offrire. Sono Federico Taddia e vi aspetto ogni sabato alle 12 all'Altra Europa per andare insieme a cercare e a scoprire l'Europa delle persone, delle storie e delle possibilità. L'Europa c'è, facciamola nostra. In collaborazione con Euronet Plus. Il sabato del villaggio. Da fare il giorno, volevo qualcuno da incontrare, la notte volevo qualcosa da sognare. Mi sono innamorato di te perché non potevo più stare solo il giorno. Volevo parlare dei miei sogni, la notte, parlare d'amore. Ed ora che avrei mille cose da fare, io sento i miei sogni svanire, ma non so più pensare nient'altro che a te. Mi sono innamorato di te e adesso non so neppure io cosa fare. Il giorno mi pento d'averti incontrata, la notte ti vengo a cercare. E anche qui dal Festival di Sanremo si può parlare di libri. Anche quest'anno abbiamo deciso di parlare un po' di libri che appunto raccontano di storie di musica, di storie musicali. Secondo me abbiamo già capito di cosa vuole parlare la nostra Alessandra Tedesco. Ciao Alessandra! Ciao Marta, ti stai divertendo? Guarda, come sempre è un'occasione magica Sanremo, è un'esperienza che consiglio a tutti, da giornalisti, da spettatori, da turisti, è sempre bellissimo essere qua. Dovremmo ripristinare le nostre lezioni su Sanremo, ti ricordi quando le facevamo? Perché io è notorio che non so mai nulla di Sanremo e tu mi dai sempre delle indicazioni molto precise e molto puntuali, grazie Marta. È vero, le indicazioni e le istruzioni per l'uso. Alessandra, però io chiedo a te, per tutti gli appassionati di musica, coloro che in questi giorni di Sanremo si siano così un po' appassionati alla materia e volessero anche leggere qualcosa a tema, magari per rimanere anche alla fine della manifestazione un po' attaccati a qualche ricordo, a qualche canzone. Ti faccio solo un nome, Luigi Tenco. Lo sai meglio di me che sì. Quest'anno insomma è stato sono stati 50 anni dalla morte del cantautore che si tolse proprio la vita al Festival di Sanremo il 27 gennaio del 67, e ovviamente stanno fioccando libri come Nespole, mi verrebbe da dire, perché insomma è quando ci sono gli anniversari si scrivono molti libri, ed è giusto anche così per ricordare dei personaggi che hanno fatto in questo caso la storia della musica. E allora, a proposito di Luigi Tenco, ti segnalo due libri. Uno si intitola Vita di Luigi Tenco, l'ha scritto Aldo Colonna, che è un giornalista che si occupa di cultura, spettacolo e così via, ed è pubblicato da Bompiani. Diciamo che è un libro in cui sì, si fa la biografia, naturalmente la storia di Luigi Tenco, ma si cerca soprattutto di analizzare, andare in fondo alla, come dire, all'aspetto esistenziale, alla vicenda esistenziale della persona, dell'uomo Luigi Tenco, non solo dell'artista, anche per cercare di capire cosa l'ha portato insomma a togliersi la vita in quello che purtroppo è rimasto nella storia della musica italiana il suicidio storico, perché è avvenuto a Sanremo, tu lo sai meglio di me, quindi chiunque ricorda quel triste episodio. Sì, tra l'altro molti lo ricordano perché c'erano, molti lo ricordano come quelli della nostra generazione che non c'erano ma ne hanno sentito parlare fin da piccoli, da bambini, ma in questo periodo le ricerche su Google, è stato insomma calcolato da Google che in tanti hanno fatto ricerche per sapere qualcosa di più di Luigi Tenco, che appunto affascina anche le giovani generazioni. Eh sì, effettivamente ci sono molte ricerche su Google e molti libri che stanno uscendo. Il secondo che ti segnalo si intitola Forse non sarà domani, come una delle frasi storiche di una delle sue canzoni, scritto a quattro mani da Mario Campanella e da Gaspare Palmieri, sottotitolo Invenzioni a due voci su Luigi Tenco. Quindi insomma è stato scritto a quattro mani, anche in questo caso si parla della vita musicale, delle canzoni, e anche si cerca di capire quali furono i motivi che lo spinsero appunto al suicidio. Questo libro è pubblicato da Arcana Edizioni. Affascinantissimo allora, ma immagino che ci siano anche altri aspetti della vita musicale nei libri usciti in questo periodo. Guarda, su Sanremo te ne segnalo uno perché, come dire, vi fa un pochino le pulci a voi chiamate Sanremo. Accidenti! Sì, si intitola Il libro nero del Festival di Sanremo, scritto da Romano Lupi e Riccardo Mandelli, pubblicato da Odoia. Allora, che cos'è questo libro? Si fa un po' la storia del Festival di Sanremo, cercando di svelare i retroscena politici, economici, gli accordi. Si mette in evidenza, per esempio, che il festival era nato per sostenere l'attività del Casinò di Sanremo, tant'è vero che la prima vincitrice, Nilla Pizzi, fu quasi obbligata a giocare alla roulette, perché insomma venisse diffusa l'immagine di Sanremo, cantante vincitrice e Casinò. Poi ci sono anche altre curiosità, insomma vanno veramente a sfruculiare tutte queste annate di Sanremo, e raccontano gli autori che Pupo spese 75 milioni di lire, chiaramente all'epoca, in schedine del Totocalcio per pilotare il voto del pubblico. Quindi tutto, come dire, il nero più nero, il marcio di Sanremo, di cui gli autori naturalmente si assumono le responsabilità. Io mi dissocio, nel senso che non ho le prove di quanto dicono, è contenuto nel libro nero del Festival di Sanremo, pubblicato da Odoia. E chissà invece se Pupo ci sfornerà un nuovo romanzo, visto che qualche anno fa ci aveva fatto divertire moltissimo con il suo primo thriller. Chissà se continua a scrivere Pupo. Ancora libri musicali, tra virgolette, Alessandra? Beh, allora, uno che sicuramente l'ha fatto il Festival di Sanremo, almeno dietro le quinte, è Adriano Aragozzini. Insomma, lo sai decisamente meglio di me, all'epoca veniva chiamato impresario, insomma è stato uno dei più importanti produttori, manager italiani di cantanti, ha promosso all'estero cantanti, la musica italiana, ha fatto firmare insomma grandi contratti per i nostri artisti. Beh, Adriano Aragozzini ha scritto un libro che si intitola Questa sera canto io, decisamente, come dire, esplicito il titolo, pubblicato dalla Nave di Teseo. Sottotitolo Splendori, miserie, passioni, tradimenti, segreti e trasgressioni in 50 anni di canzone italiana. Beh, devo dire che sono tanti retroscena, vi incuriosiscono molto, quindi io li leggerò tutti tornata da Sanremo per rimanere un po' così in atmosfera sanremese ancora per qualche giorno. Qualche altra segnalazione flash, Marta, su libri che hanno a che fare con la musica. Uno dei dei protagonisti, almeno degli anni scorsi, giuro ignoro se ci sia quest'anno, credo di no, ma veramente sai che io non seguo Sanremo, Riccardo Fogli, che ha scritto con Tommaso Labranca e Luca Rossi Un uomo che ha vissuto, storia di tutti i miei giorni, pubblicato da Sperling e Kupfer, e che è sostanzialmente l'autobiografia di Riccardo Fogli, la storica voce dei Pooh, aveva cantato appunto nel gruppo fra il 66 e il 73, poi racconta anche storie insomma private, un po' di gossip, perché a un certo punto lascia la moglie Viola Valentino per stare con Patti Pravo, insomma racconta un po' di storie. So che tu tra l'altro l'hai incontrato e l'hai intervistato su questo libro, quindi mi sa che ne sai più tu di me in questo caso. Abbiamo anche una puntata di 140 caratteri che potete recuperare dal sito di Radio 24, ci ha raccontato tutto Riccardo Fogli, anche dell'avventura di scrivere il libro con Tommaso Labranca, che purtroppo è mancato proprio nei giorni in cui stavano scrivendo insieme, quindi è stata una storia molto difficile, travagliata alla nascita di questo libro, che poi alla fine invece felicemente è uscito e io sono molto affezionata, quindi questa volta lo consiglio io perché l'ho letto, Alessandra. Lo so, infatti stavolta sei tu la libraia in questo caso. Poi sai, sfogliando un po' i vari libri, andando alla ricerca di libri che parlano di musica, c'è una storia che mi è piaciuta da morire, sono sicura che tu la sai perché conosci bene l'ambiente della musica e io non la conoscevo. Il libro si intitola Rap, una storia italiana, pubblicato da Baldini e Castoldi, l'autrice Paola Zucar. Chi è Paola Zucar? Tu lo sai meglio di me, infatti. L'ho conosciuta. L'hai conosciuta. Io non sapevo che dietro il successo di alcuni rapper italiani come Clementino, Fabri Fibra, Marracash, che sono diciamo quei rapper che hanno portato il rap da musica di di nicchia, chiamiamola così, a musica invece più diffusa, più popolare, e c'è Paola Zucar, che praticamente ha un'agenzia di produzione, la Big Picture Management, e ha sostanzialmente sostenuto e fatto andare avanti questi rapper, ed è meraviglioso vedere che dietro questi rapper c'è una donna, una storia veramente molto affascinante. Alessandra, abbiamo ancora un piccolo consiglio da dare, abbiamo ancora un minuto e mezzo per insomma dare ancora un piccolo consiglio. Un consiglio flash, sai che va di moda adesso fare tutto spiegato a mio figlio, no? I libri, le cose eccetera, mi ha divertito molto il titolo, Vasco, Fabrizio e i Beatles spiegati a mio figlio, un libro che è pubblicato da Arcana Edizioni, anche questo è scritto da Marcello Giannotti e Paolo Giordano, non lo scrittore, il narratore, ma il critico musicale, lo preciso, poi spesso perché interviene anche al Sabato del Villaggio, quindi gli ascoltatori lo conoscono. Lo so, però sai, parlando di libri magari si fa confusione, ed è molto divertente come questi due autori cerchino di spiegare appunto ai figli che non hanno neanche idea di che cosa fosse un 33 giri, di chi era Vasco Rossi agli inizi, De Gregori, i Beatles, vabbè non ne parliamo, e quindi è un modo per creare un ponte fra generazioni, almeno un ponte musicale fra la generazione di ora e la generazione di qualche anno fa. Che bello, questa idea mi piace un sacco per avvicinarsi un po'. Alessandra, ti avevo detto che era l'ultimo consiglio, ma ho detto una bugia, era il penultimo consiglio, perché l'ultimo è quello del cacciatore di libri. Come sempre Marta, per i mattinieri del sabato alle 6.30 e per tutti gli altri in replica alle 22, ma potete scaricarlo tranquillamente dal podcast e quindi ve lo ascoltate quando meglio vi aggrada. Siccome questa mattina io mi sono svegliata un po' tardi, ti recupero in podcast. Ci rivediamo a Milano la prossima settimana, ciao Alessandra! Brava Marta, torna vincitrice e porta... Che cosa si mangia a Sanremo? Non so, una cosa buona da mangiare. La focaccia. Sardinara. E allora tu portala, ti aspetto. Il sabato del villaggio. Good morning. Ça va, vous qui nous écoutez chez vous à la maison? Bonjour Julie. Bonjour. Aus l'antirassistische Netzwerk Sachsen-Anhalt. 24 mattino di Alessandro Milan. Ma dove eravate finiti? Il Parlamento è aperto ogni giorno dalle 6.30, caffè, brioche e giudizi in libertà. E alle 7.20 vi leggo i giornali gratis. Alessandro Milan, il boss dell'informazione. Oh, vi aspetto, dal lunedì al venerdì. E siccome la carta costa, scopriremo anche l'articolo più inutile del giorno. Ma chi se ne frega? Il sabato del villaggio. sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, mai la vita che passa, che passa. Che sia benedetta, per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta, tenersela stretta. Siamo eterno, siamo passi, siamo storie, siamo figli della nostra verità. E se è vero che c'è un Dio e non ci abbandona, che sia fatta adesso la sua volontà. In questo traffico di sguardi senza meta, in quei sorrisi spenti per la strada, quante volte condanniamo questa vita, illudendoci di averla già capita. Non basta, non basta, che sia benedetta. Siamo ancora insieme con il Sabato del Villaggio, sempre da Sanremo, qui in questo momento sulla terrazza del Teatro Ariston. Sentirete magari qualche rumore della vita che si sta svolgendo sotto il teatro proprio nel sabato pomeriggio che sta precedendo così il momento decisivo di questo festival. Questo però, come sempre a quest'ora, è il momento dei consumi, delle nuove tendenze, e anche qui parliamo di musica. La musica è una parte importante, un aspetto importante. Cosa ci ha scovato la nostra Maria Luisa Pezzali? Ci colleghiamo subito con Milano per chiederglielo. Ciao Maria Luisa. Ciao Marta, un saluto a tutti. Sì, perché c'è un effetto Sanremo anche nei consumi. Beh, non solo, immagino, per la vendita dei dischi, che ahimè sono sempre meno, ma ormai la musica si consuma in tanti modi, ma forse così mette in generale voglia di musica Sanremo. Sì, perché è risaputo negli ultimi anni, grazie anche, bisogna dirlo, ai talent, la passione per la musica e il canto soprattutto si è riaccesa, e quindi Sanremo è andato a rialimentare, insomma, quella che era la sua tradizione. Allora lo testimonia il boom per le lezioni di musica e di canto in questi anni, Marta. Beh certo, diciamo che quando eravamo più ragazzi noi sembrava qualcosa di molto esotico. Invece adesso finalmente anche questo è diventata prima una moda, ma poi un'abitudine secondo me molto sana, molto bella. Sì, e bisogna dire anche non solo per chi vuole fare il cantante, perché comunque l'educazione della voce, insomma l'impostazione della voce, tu Marta lo sai bene perché so che tu hai un passato in questo senso. Può aiutare anche in altre professioni, anche inaspettate. Anche nella nostra. Perché in tanti nella vita mi hanno chiesto: ma come hai imparato? Beh, io ho studiato canto per tanti anni, lo confesso. Eh beh sì, io non ho studiato canto, però bisogna dire insomma che l'uso della voce che ho coltivato negli anni mi aiuta anche in altre situazioni. Io lo dico sempre, insomma, public speaking è una cosa che ormai serve un po' a tutti, qualsiasi professione si faccia, quindi anche in questo senso educare la voce con il canto, perché no, può servire. Concordi, Marta? Sì, anche se non vogliamo concorrere a un talent show, arrivare esatto sul palco dell'Ariston. Io perlomeno assolutamente no. Comunque, tornando al tema consumi, lezioni di musica e di canto che nell'era del digitale, della sharing economy, avvengono anche direttamente sul web attraverso varie piattaforme per l'apprendimento. Ne cito una, chitarrafacile.com, oppure avvengono sì fisicamente, quindi di persona, ma concordate attraverso piattaforme, siti che mettono in contatto chi cerca una lezione, un corso di musica o di canto con chi lo tiene, cioè con un insegnante. Quindi un accordo tra pari, peer to peer, insomma è il termine tecnico per definire queste piattaforme. Una di queste è prontopro.it, in realtà è un sito che opera non solo nel settore musicale, perché mette in contatto diretto clienti e professionisti professionisti di ogni genere, quindi dall'idraulico alla wedding planner, Pronto Pro ha appunto analizzato le richieste di lezioni di canto dell'ultimo anno e ha scoperto un bel po' di cose. Allora ce lo facciamo raccontare da Giusy Palmiero. Buon pomeriggio Giusy, ciao! Ciao Maria Luisa, ciao Marta, grazie per avermi chiamato. Allora, innanzitutto voi avete scoperto che ci sono delle differenze geografiche, è così? Sì, allora noi in effetti che cosa abbiamo fatto? Abbiamo analizzato il numero di richieste ottenute nelle tre città più popolose d'Italia, quindi da nord a sud abbiamo analizzato Milano, Roma e Napoli, le abbiamo rapportate con il numero di abitanti di queste tre metropoli ed è emerso proprio come i meneghini si dimostrino i performer più appassionati e sono seguiti dai napoletani e poi i romani sono terzi in questa classifica. Beh, a sorpresa, perché noi avremmo tutti detto, no, a Napoli si canta, invece anche i milanesi hanno delle doti nascoste. Assolutamente sì, sono proprio una sorpresa per noi perché evidentemente non si dedicano solo al lavoro, ma appunto a loro piace anche imparare proprio a cantare. Beh, comunque questo secondo posto dei napoletani, Marta, si ritrova anche nelle presenze al festival, no? Beh, quest'anno al festival c'è stata la pattuglia napoletana più ricca di anni scorsi tra Clementino, Gigi D'Alessio e Maldestro, quindi insomma il festival quest'anno ha dato lustro a Napoli. Qualche anno fa ci si lamentava che c'era poca Napoli, invece quest'anno ce n'è stata tanta. Dal punto di vista dell'età, Giusy, che cosa avete evidenziato? Sì, abbiamo evidenziato che Milano e Napoli sono le città più giovani, nel senso che qui gli aspiranti cantanti hanno tutti un'età compresa tra i 20 e i 30 anni, e invece Roma è un po' meno giovane perché chi chiede di imparare a cantare ha tra i 30 e i 50 anni. Inoltre abbiamo anche scoperto che tutte le richieste registrate prediligono lezioni individuali, quindi da tutte le città si sceglie proprio di imparare a cantare individualmente. Ma quanto costa mediamente una lezione di canto? Allora, abbiamo condotto un'analisi l'anno scorso proprio rispetto a quelli che erano i costi e si aggiravano intorno ai 30 euro. Beh, devo dire 30 euro rispetto ai corsi individuali che possono veramente arrivare a cifre molto alte. È un passatempo sano e appunto mi piace molto. Grazie Giusy, devo dire che è un'ottima idea, ci penserò anch'io. Non so se Maria Luisa così ha avuto lo stesso pensiero, esatto, di darsi non lo così. So, allora, io mi sento fuori età, però invece potrei rivalutare invece la cosa. Invece grazie Giusy, alla prossima occasione. Grazie mille a voi, buona giornata. Adesso invece è il momento di andare a scoprire qualche chicca, chissà se anche questa musicale, della nostra Cristina Lazzati. Ciao Cristina. Ciao a tutti, pronti a brindare o a consolarsi? Bene, io allora sempre. Parliamo di vini e parliamo di vini e di musica, in particolare di Sanremo. E quindi Viniamo.it, che è una piccola startup fatta con Digital Magic, propone sul suo sito di e-commerce un modo particolare di scegliere i vini, un po' come su Spotify. Di fatto si parte da un vino magari che conosciamo e ci piace e poi ci sono dei suggerimenti che sono un po' a tema, ma non per chi conosce. Io personalmente sono una grande amante di vini, in particolare quelli bianchi, però obiettivamente quando comincio a sentire termini profumato come una noce del sud, adesso sto facendo un esempio, capisco pochissimo, so solo che un vino mi piace o non mi piace, e se mi piace quello magari mi piace anche l'altro. E questo, come dire, per quelli come me cui piace acquistare vini ma nello stesso tempo non sono un po' irritati dai paroloni degli enologi e quant'altro, ecco, Viniamo è un po' la risposta. E per Sanremo cosa hanno pensato di fare? Una playlist, perché funziona una playlist, che si chiama Ridateci Vessicchio, che obiettivamente era diventato un po' un personaggio delle scorse stagioni. E per ogni cantante hanno deciso di abbinare dei vini in base un po' alla provenienza del cantante, quindi del vino, in base un po' al carattere del cantante o addirittura del titolo della canzone. Vi faccio qualche esempio. Per Giusy Ferreri, che è di origine siciliana, abbinano un Etna rosso, mentre Gigi D'Alessio, che canta La prima stella, abbinano un Syrah, perché Syrah è il nome di una stella della costellazione di Andromeda, per cui in questo modo, come vedi, un po' di gioco c'è sempre. E poi per invece Giulia Luzzi e Rage, correggimi Marta se sbaglio la pronuncia, perfetti, perfetti, togliamoci la voglia. E allora a questo punto togliamoci la voglia con uno champagne speciale da bere in occasione proprio per il festival. Vediamo un po', ci sono, c'è anche per Samuel, ex dei Subsonica, con Vedrai, un bel Barbera d'Asti. Insomma, ce n'è un po' per tutti. Si va in più o meno in tutte le regioni, anche perché i nostri cantanti arrivano un po' da tutta l'Italia. Anzi, chiudo un attimo con Nesli e Alice Paba, che sono umbri, se non sbaglio, con un bel grechetto dell'Umbria. Quindi, se volete ascoltare Sanremo o riascoltare le canzoni che hanno vinto o che vi sono semplicemente piaciute a Sanremo, beh, forse un clic su vignamo.it può aiutarvi a scegliere la giusta bevanda da abbinare a quella canzone. Adesso non dico che bisogna berli a ogni cantante questa sera durante la finale, perché mi sembra troppo, però è veramente divertente. Grazie della chicca, Cristina Lazzati. Ciao Cristina. Grazie a voi, ciao a tutti. Luisa, anche da Sanremo invece ti chiedo il consiglio di essere a avere. Beh, come sempre domani alle 22, Marta, ti invidio, che bello che sei lì per la finale. È molto emozionante, ci ritroviamo sabato prossimo a Milano. Il sabato del villaggio. Sono Gigi Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di Gigi Telesforo. Sabato e la domenica a partire dalle 19:15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Il sabato del villaggio. Basta! Basta! No, ragazzi, basta! Mentre stiamo qua che scherziamo, ci sta quel povero uomo di Beppe Vessicchio, chissà dove, da solo, a piangere, a fare che, abbandonato da tutti, dimenticato da tutti quanti, a mangiarsi una scatoletta di tonno, solo lui! È arrivato un messaggio da Beppe Vessicchio. No. Ciao di Jackal! Ehi, mentre voi siete lì tutti tristi a guardare Sanremo, intanto Vessicchio si sta godendo la vita. E ricordate, termostato. Si inizia l'orchestra! Beppe Vessicchio! La felicità di essere insieme al personaggio più richiesto di questo Festival di Sanremo, e voglio sapere se è suo malgrado, se questa cosa, che effetto gli fa. E buongiorno al maestro Peppe Vessicchio. Quindi c'è Peppe Vessicchio a Sanremo. Buongiorno a voi. Sì, anche per me è una cosa straordinaria, credo assolutamente non voluta, perché credo che l'affetto che arriva è legato soprattutto a questa azione sincera, serena. Io credo di trasferire a tutti una sensazione di tranquillità, perché forse non traspare altro che quello che io realmente desidero e penso. Quindi non ci sono retropensieri, non ci sono falsi scopi, è tutto quello che voi vedete è così, ecco. Allora, lo voglio dire subito, perché lei si è prestato ad essere presente a un'iniziativa molto bella che c'è stata a Sanremo in questi giorni, che è Sanremo per il sociale. Se ne è parlato poco, però è molto bello perché lei ha voluto essere al fianco anche di un'iniziativa collaterale che però ha parlato di cose belle qui a Sanremo, cose importanti. Allora, la musica purtroppo, è soprattutto attraverso i media, viene banalizzata, devo dire, nella sua profonda capacità di comunicare. E la musica, essendo la seconda lingua di ogni popolo, è in effetti una lingua comune, ed è la lingua attraverso la quale è possibile trasmettere specifici valori legati proprio all'individuo, all'umanità. È giusto che Sanremo, voglio dire, sia come sia, ma è giusto nella stessa città, nello stesso luogo, con lo stesso nome, parlare anche di come la musica può incrociare temi sociali e di sostegno. Ecco perché già l'anno scorso io ho partecipato a questa manifestazione, quest'anno avevo chiesto a Gino mi aiuta anche a trovare un teatro dove poter presentare il CD e il libro, e Gino mi ha detto guarda che noi quest'anno non saremo più al Palafiori perché c'era molta confusione lì, ma saremo al teatro dell'Opera del Casinò. Io ho detto guarda, ma tu pensi che io possa avere lo spazio? Ma tu sei ospite nostro, mi ha detto. Quindi a questo punto, siccome già è partita con loro da un anno un'interazione, credo che questa sia veramente la condizione migliore che io potessi sperare sia per parlare dei miei progetti, sia per raccontare come la musica ha bisogno di riscoprire questo valore comune. Un libro del quale si è già parlato un bel po', che è La musica fa crescere i pomodori, con un titolo molto sorridente, e poi questo Parenti Latini, Peppe Vessicchio e i solisti del Sesto Armonico. Io trovo che ci sia qualcosa in comune in questo progetto tra il libro e questo CD, perché in entrambi i casi lei ci sta spiegando che la musica fa stare bene. Assolutamente sì, non lo dico io, ma lo testimonia fortemente, per coloro che vogliono dati scientifici, una università della Germania dove hanno fatto dei test secondo protocollo scientifico, quindi con un numero di persone che ascoltano Mozart, un numero uguale che non lo ascolta, un altro numero che ascolta altra musica, e hanno potuto avere la testimonianza che addirittura hanno avuto un abbassamento della frequenza cardiaca e anche un livellamento della pressione in un numero specifico di millibar. Quindi mi ha colpito il fatto che le vacche del Wisconsin producessero più latte ascoltando la musica classica in generale. Non mi stava bene l'aspetto classista, cioè della musica classica, per cui ho indagato e ho visto che si tratta sempre di Mozart, e Mozart che ha questa grandissima capacità di relazione naturale con gli organismi viventi, e ho studiato a fondo l'argomento quando ho visto che Beethoven, il mio amato Beethoven, non aveva gli stessi risultati con le piante, perché io non avendo le vacche ho usato le piante. Ho capito che bisognava indagare nella condotta delle parti, così si chiama in termini tecnici, delle composizioni. Quando ho visto come Mozart muoveva le parti, ho capito che si riferiva ad una scuola antichissima del rispetto degli armonici per come si combinano nell'aria. E ho visto poi che non è solo Mozart, ma poi nel Novecento ci sono altri compositori come Shostakovich, tra quelli che io ovviamente ho avuto un modo di poter testare e di analizzare, e anche Béla Bartók, per cui non è legata a un mondo, a un genere, a una zona. E ancora, tra l'altro, siccome siamo sempre in un ambito acustico e colto, adesso ho intenzione di trovare qualche cosa nel mondo pop elettrico che abbia lo stesso effetto, per dimostrare che questo valore che c'è nella musica non è appunto non è classista. Sicuramente nel musicista colto sarebbe più facile trovarlo, però forse possiamo anche aspirare ad una musica popolare colta, insomma, non sarebbe male. Era proprio quello che volevo chiederle, perché nonostante, appunto, poi io sono la prima a passo, quando lei ha detto Bartók mi sono illuminata, perché io sono particolarmente affezionata, però mi chiedevo se il pop ha qualche speranza, sì? Io penso di sì, ecco, per esempio una cosa che penso è che noi abbiamo speranza innanzitutto di definire bene questa prassi compositiva, che secondo me è una prassi che troviamo nei libri, nei partimenti si chiamano, che erano uno speciale strumento didattico del 1700, che ho capito perché tra l'altro Shostakovich si ritrova questo tipo di concezione, perché il suo maestro Maximilian Steinberg, che insegnava a San Pietroburgo, forse è stato uno degli ultimi ad usufruire dei partimenti nei suoi studi, quindi ha tramandato probabilmente ai suoi allievi, anche a Popov, questa capacità. Avendo delle regole, si può giocare con la regola. Questo voglio dire, per trasgredire la regola si può trasgredire. Mozart ha fatto il quartetto delle dissonanze, che all'epoca ha fatto scalpore per quanto fosse ardito, ma l'ha fatto sempre nell'ambito di una serie di regole. È riuscito a sorprendere, ma sono regole dettate dalla fisica e dagli armonici del suono. E da qui appunto sesto armonico ci siamo. Esatto. Le chiedo un'ultima cosa, maestro, che sembrerà banale dopo questo discorso splendido, ma lei lo sapeva di essere così amato? Perché in rete uscite Vessicchio, perché Vessicchio non è venuto a Sanremo, le polemiche sui giornali, lo sapeva di avere così tanta attenzione attorno a sé? L'anno scorso me ne sono accorto, è stato per me una grande sorpresa, un grandissimo piacere. Quest'anno pensavo che ci fosse una parte di quell'azione legata alla circostanza, perché sappiamo che a volte sono le circostanze che creano anche l'onda. Invece, quando ho visto che è ripartito tutto due settimane prima del festival, la notizia che non ci sarei stato, e comincio a pensare che esista qualche cosa di empatico come tra la musica e i pomodori, che dei quali racconto nel libro, che esiste qualcosa di empatico tra me e coloro che in qualche modo sono in contatto con me. Non voglio dire che io faccia bene a loro, ma forse posso dire che non faccio paura a loro. Maestro, siamo un po' i suoi pomodori, grazie per essere stato con noi. A presto. Grazie a voi. Grazie.